È giovedì 1 novembre, i titoli intanto, c'è chi apre molti giornali sulla novità della legge di stabilità. Il Sole 24 Ore, stop sull'IRPEF, tagli al cuneo fiscale. Il Corriere della Sera salta il taglio dell'IRPEF. Per Repubblica, dietro front sull'IRPEF, niente sgravi. Il Secolo XIX, saltano i tagli IRPEF meno sgravi dal 2013. Saltano i tagli l'IRPEF anche per il Messaggero, mentre La Stampa, IRPEF e IVA si torna indietro. Scambio IRPEF-IVA, questo invece è il titolo di apertura di Avvenire. Libero, il lavoro c'è, ecco dove. Mentre la vicenda Fiat, con Marchionne che dice devo riassumere 19 della Fioma, allora metto in mobilità altri 19 operai. Vendetta di Marchionne nell'Italia senza lavoro, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. L'Unità, la vendetta di Marchionne. Il Manifesto, la rappresaglia, che è lo stesso titolo, rappresaglia di Pubblico. Voglio partire però con nuovi aggiornamenti sulla vicenda della multa data alla moglie di Bersani. E quella frase che lei dice, io non ho mai detto, lei non sa chi sono io alla vigilessa. Oggi Daniela Ferrari, la moglie del segretario del PD, viene intervistata dal Corriere della Sera da Francesco Alberti a pagina 15. Eccolo qui l'esordio dell'intervista. Scusi, sono al supermercato, sto facendo la spesa. Allora, questa multa, ma si figuri se io ho mai detto la frase lei non sa chi sono io. Non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di usare un'espressione arrogante, caricaturale come quella che mi hanno attribuito. Glielo posso giurare sulle mie figlie. Questa è la moglie di Bersani. Ma è vero che la vigilessa le ha consegnato il verbale, se è arrivata una piccola folla. Sì, è stato molto antipatico, dice la moglie di Bersani. Ho avuto la netta sensazione che in quel paese, alla faccia del lei non sa chi sono io, mi conoscessero invece fin troppo bene, qualcuno mi abbia teso un piccolo agguato per montare il caso. Sentivo frasi come vergognati, torna a casa tua, capisco il clima elettorale ma si sta esagerando. Comunque dice, sì è vero, ero in divieto di sosta ma non mi sono accorta, ero di fretta, stavo andando a bettola. Il tempo di entrare in un negozio, arriva la vigilessa, tanto che ho avuto il sospetto che qualcuno riconoscendo la mia auto l'avesse avvertita. Sì, ma lei era in divieto, dice e scrive Francesco Alberti. Sì, certo, mi sono scusata, poi ho chiesto alla vigilessa se mi dava il tempo di terminare il pagamento nel negozio col banco, ma lei era molto incalzante, intanto un gruppo di persone ha fatto partire parole per nulla gentili. Insomma, ho pagato 38-39 euro, già saldata, ma certo non a Ponte dell'Olio, dove è avvenuta, ma a Bettola, perché evidentemente a Ponte non sono gradita. Ecco qui, insomma, cerca di ristabilire la verità con la sua versione, la moglie di Bersani e la multa, è stato un agguato. Trovate l'intervista a pagina 15 del Corriere della Sera e tra l'altro il Fatto Quotidiano con Andrea Scanzi racconta a pagina 5 un po' un vademecum, un po' una cronistoria del lei non sa chi sono io e i politici, quell'attrazione fatale, riepilogando e ricordando anche altre vicende come Gabriella Carlucci che un giorno irrompe alle 10 del mattino in pieno centro di Roma con Porsche cabriolet grigio metallizzato, bypassa uno stop e fa un incidente con un jumbo bus, crash! Gabri scende, constata che si è appena rotto un fanalino e riparte, mentre l'autista ATAC la insegue per la constatazione amichevole. Ma le granitiche spiegazioni della Carlucci erano alla Camera c'erano le votazioni. Oppure Renato Schifani, che nel 2002 al cinema di Palermo tenta di entrare gratis con una tessera Agis scaduta, scrive Scanzi, e quando la maschera non lo lascia passare lui chiede alla scorta di identificare il vile plebeo che tanto ha usato. E poi immortale Claudio Burlando, ricordate, nel 2007 capisce l'umore del paese e si comporta di conseguenza percorrendo contromano 1,5 km di superstrada e quando la polizia lo ferma esibisce il tesserino da deputato scaduto. O vabbè, ricorda Scanzi Bettino Craxi, qui si affonda nella Prima Repubblica, quando si imbarcò a Fiumicino su un aereo senza biglietto e di fronte ai fermi rimproveri del solito feticista della legge, Craxi reagisce spintonandolo per terra. Un esponente di Rifondazione Comunista lo raccontò e Bettino non si scompose. Quel signore non mi permetteva di andare a Milano. O ancora Eugenio Scalfari, deputato nel 70, parcheggia vicino alla stazione centrale di Milano in posti riservati ai carabinieri, lo invitano a spostare l'auto, ma fu allora che Scalfari pronunciò il sacro mantra dell'ego ferito. Ecco, il lei non sa chi sono io. Vabbè, succedono queste cose nel nostro paese? Succedono. Intanto succede anche, racconta il giornale a pagina 2 con Paolo Bracalini, tre consiglieri da record, appuntatevi i nomi, se volessero parlare io domani li chiamo. Enzo Di Stefano, Giancarlo Gabbianelli e Gianfranco Sciscione sono stati in regione da maggio a settembre del 2010, quindi 3 mesi con in mezzo le vacanze, e per questo percepiranno un vitalizio che già percepiscono da 2.800 euro mensili. Lo racconta Paolo Bracalini appunto sul giornale a pagina 2. Non potevano neanche essere eletti, tanto che dopo 3 mesi sono stati eletti per via di un'interpretazione della legge elettorale annullata dal TAR, che quindi li ha fatti decadere, ma per quei 3 mesi in regione avranno questo vitalizio, per l'appunto, racconta Paolo Bracalini, un vero win for life ottenuto grazie a un'elezione che poi temporanea di 3 mesi che il TAR peraltro ha giudicato illegale. I tre consiglieri da record hanno il vitalizio dopo 90 giorni, lo trovate sul giornale. Evviva! Noi ci fermiamo qualche minuto e rientriamo da IRPEF, IVA, la vicenda Marchionne con gli operai della FIOM e tra l'altro Marchionne che oggi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ci sono tantissimi argomenti interessanti da cui parlare che sono sui giornali oggi. Il primo riguarda la legge di stabilità con tutte le novità. Allora, cosa si è deciso? Uno stop ai tagli dello scalone dell'IRPEF, dunque salta il mini taglio dell'IRPEF, una brutta notizia, però salta anche la retroattività degli sgravi fiscali che aveva suscitato tante polemiche, che il Sole 24 Ore aveva fatto emergere per primo, e quindi questa è una buona notizia. Per quel che riguarda l'IVA, l'IVA del 10% dovrebbe rimanere così, dovrebbe invece aumentare la sola aliquota del 21%, dunque una notizia, una positiva e una negativa. Insomma, ora ci sarà anche l'obiettivo, quello di alleggerire il cuneo fiscale puntando sulle detrazioni sul lavoro. Questi sono gli elementi dell'intesa di massima sul restyling della legge di stabilità tra il ministro dell'economia Grilli e i relatori del provvedimento alla Camera. Tutti i dettagli con Marco Rogari a pagina 3 del Sole 24 Ore. L'intesa tra Grilli e la maggioranza appunto si punta sulle detrazioni sul lavoro, dimezzato l'aumento dell'IVA e salta il mini taglio dell'IRPEF. Riguardo al cuneo fiscale, anche il Corriere della Sera con Enrico Marro a pagina 3 racconta come lavoro e imprese ora puntino a questo. Il taglio del cuneo fiscale diventa la priorità, con la pressione anche dei partiti, in particolare di Baretta del Partito Democratico e Brunetta del Popolo della Libertà sul ministro all'economia Grilli. Ma Repubblica racconta un qualcosa che è importante e serio per il tema di cui si è discusso in Consiglio dei Ministri, che ha un lato anche di colore che farà nuovamente discutere. Il lato di colore da cui voglio partire è questo: Elsa Fornero è tornata a piangere. Lo scrive Repubblica, questa volta in modo non pubblico, davanti a tutti, ma all'interno del Consiglio dei Ministri, in una discussione tesa a tratti. Scrive Alberto D'Argenio: Fornero piange un'altra volta, questa volta però per un motivo molto molto serio, vale a dire il fatto che il governo non ha trovato fondi, scrive Repubblica, per i malati di sclerosi laterale amiotrofica, i malati di SLA. La vicenda è raccontata a pagina 2 e 3 di Repubblica. Non è un caso, numerosi malati di SLA da giorni hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro i tagli del governo ai fondi per l'assistenza a domicilio. E proprio ieri il ministro Fornero e Balduzzi erano attesi a Cagliari per mantenere un impegno preso con uno dei malati impegnati nella protesta, Salvatore Usala, colpito da anni da SLA, che aveva scritto alla Fornero una lettera che ha interrotto lo sciopero della fame solo dopo la promessa di una visita da parte dei due ministri. Ma che cosa è successo? È successo che in Consiglio dei Ministri Monti e Grilli hanno detto i soldi non ci sono. Monti e il ministro dell'economia, scrive Repubblica, hanno dovuto opporsi allo stanziamento dei soldi necessari per garantire l'aiuto pubblico ai malati e alle loro famiglie. A quel punto Fornero non ha resistito alle lacrime ed è scoppiata in un pianto che ai colleghi ha ricordato quello celebre del 4 dicembre 2011, quando si mise a singhiozzare in diretta TV. Fatto sta che ieri pomeriggio i due ministri sono partiti per Cagliari senza certezze da dare ai malati di SLA. Allora, il lato di colore che farà discutere, appunto, come io ho twittato subito nel mio profilo Alino Milan, è che Elsa Fornero è scoppiata nuovamente a piangere. Ma la notizia, se venisse confermata, a mio modo di vedere, è vergognosa. Cioè, com'è possibile che uno Stato, se venisse confermata, non trova dei fondi per assistere le famiglie di malati di una malattia così grave? Non si trovano dei fondi da qualche parte? Non si riesce a tagliare un qualcosa? Soprattutto come, quando si legge, per esempio, l'articolo di Sonia Oranges su Il Secolo XIX, pagina 4, la casta delle toghe fuori ruolo salva posto, carriera e stipendio. Ci sono molti magistrati fuori ruolo. Molti di questi magistrati siedono anche in Consiglio dei Ministri, sono al governo. Per esempio, Patroni Griffi, il ministro Patroni Griffi, che è stato presidente di sezione del Consiglio di Stato. Catricalà, che è sottosegretario ed è giudice amministrativo. Tra ministri, sottosegretari, personalità al vertice del governo Monti, racconta Il Secolo, si contano 24 giudici amministrativi provenienti dai TAR regionali, dal Consiglio di Stato. Allora, non è che si vuole fare qualunquismo a dire si prendano i soldi dal portafogli di questi e si mettano di là, ma come è possibile davvero che non si trovino fondi quando si trovano fondi per tutto, per finanziare e aiutare delle famiglie malate che hanno familiari malati di una malattia così grave, la SLA? Beh, davvero, in questo caso le lacrime di Elsa Fornero sono lacrime giustificabilissime, a mio modo di vedere. Di cosa si è parlato ieri in Consiglio dei Ministri? E la riforma delle province. Allora, ce la stiamo facendo o non ce la stiamo facendo? Il governo, da questo punto di vista, ce la sta mettendo tutta. Col decreto del governo le province scendono a 51. Dal 2014 dovremmo dire addio a 35 enti, e già dal gennaio 2013 decadranno le giunte perché ci saranno i riordi e gli accorpamenti. Il problema è che nell'Italia dei campanili, secondo voi, questo passerà sotto silenzio? Ma che? E infatti, guardate le iniziative. Pierangelo Sapegno, a pagina 3 della Stampa, sul water o in piazza, l'Italia dei campanili che ripudia i cugini. Sul water non è una battuta. Il sindaco di Prato si è fatto intervistare tutto in giacca e cravatta, panciotto, ciuffo, brizzolato, sul cesso, seduto sul cesso con tutte le persone che gli mettevano i microfoni. E perché sul cesso? Perché ha commentato lui per commentare il fatto che Prato tornerà sotto Firenze, basta il cesso. Questo, e c'è una foto che gira su Twitter e viene pubblicata dalla Stampa, pagina 3, del sindaco di Prato, tutto composto, seduto sulla tazza del water a fare interviste. Ma c'è anche il sindaco di Chieti che ha iniziato lo sciopero della fame. C'è chi ha minacciato la marcia su Roma. C'è il sindaco, il presidente di Monza e Brianza che tornerà sotto Milano, che dice è indecente, hanno salvato la deroga Sondrio, che sarà nostro ospite, il presidente tornerà perché lì ci sono le montagne insieme a Belluno, ci sono tutte le montagne, quindi li hanno salvati. È arrivato il momento di alzare i toni, questo è il presidente di Monza e Brianza, allevi. Ognuno dice la sua. Il governo cancella 35 province, da Monza a Crotone è rivolta, anche il Corriere della Sera. Sentite cosa dice il direttore Mario Cardinali del Vernacoliere livornese, intervistato da Paolo Conti. Livorno abolita, o premier, tu sei un pisano. Questo è l'insulto massimo per un livornese. Da parte di Mario Cardinali, che racconta: ci siamo divertiti per decenni coi pisani, ebbe gran successo nel resto d'Italia il mio titolo dedicato a Chernobyl, nuvola atomica, primi effetti spaventosi, è nato un pisano furbo. Questo era un titolo del Vernacoliere: stupore nel mondo e sgomento in Toscana. Ci sono ragioni secolari, i pisani si sentono toscani antichi, autentici, docano l'orgoglio della gloriosa Repubblica Marinara, sono giustamente fieri della loro università, ma tendono a essere chiusi, calcolatori, un po' egoisti. Noi livornesi invece siamo figli di puttana, nel senso letterale e più autentico del termine. Perché Ferdinando I dei Medici nel 1593, per fondare la città, concedette l'amnistia a tutti i mercanti che avessero pendenze. E qui sono arrivati tutti: gli ebrei cacciati dalla Spagna, i cattolici perseguitati, un crogiolo di gente, molti maschi seguiti da donnine di facilissimi costumi. Per questo noi livornesi, all'opposto dei pisani, siamo libertari, allegri, goderecci e disincantati e ironici. Questo è il direttore del Vernacoliere che dice: Monti, sei proprio un pisano se mi fai questa cosa di metterci insieme ai livornesi. Vabbè, la questione delle province, ce la faranno mai, chi lo sa, le deroghe, le resistenze, i campanili, i sindaci che si fanno intervistare seduti sul cesso, quelli che fanno lo sciopero della fame, ne vedremo delle belle da qui ai prossimi mesi per cercare, o delle brutte, per cercare di porre un argine a questo. Torniamo a cose serie, nel senso che serissima è la questione del taglio delle province, forse meno serie le manifestazioni di colore e quant'altro di chi si oppone a questo. Le cose invece più serie e concrete sono la vicenda Fiat. Allora, la vicenda è questa, come racconta Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore, pagina 8. Fiat dovrà riassumere, perché così ha deciso il giudice, 19 lavoratori iscritti alla FIOM. Lo ha disposto la magistratura a Pomigliano, visto che c'è stato un comportamento discriminatorio secondo la magistratura da parte del Lingotto. E allora Marchionne che ha detto va bene, devo assumere quei 19 e allora metto 19 operai in mobilità. Devo farlo perché, come racconta in una lunga intervista, un'intera pagina al Corriere della Sera, intervistato da Raffaella Polato, è totalmente coerente la mia decisione. La cassa integrazione è arrivata anche lì, non c'è lavoro sufficiente, dove metto anche solo un assunto in più? Risponda la FIOM, io non accetto lezioni di democrazia. Poi nell'intervista dice altro, tra poco ci ritorneremo, ma intanto questo aspetto fa molto discutere. Guardate alcuni dei titoli che si trovano sui giornali come li ho riepilogati anche prima. Il Fatto Quotidiano: vendetta di Marchionne nell'Italia senza lavoro. L'Unità: la vendetta di Marchionne. Il Manifesto: la rappresaglia. C'è il commento di Loris Campetti, che scrive: ci sarà pure la magistratura, farà le sue ordinanze, ma da che mondo è mondo, il padrone resta il padrone, sul destino dei suoi dipendenti vuol decidere lui. Se poi il padrone, o armatore che dir si voglia, non vuole sporcarsi le mani, a decidere sarà il manager o comandante della nave che dir si voglia. Se poi il comandante si chiama Marchionne, quella che guida è una nave da guerra, non ci si può meravigliare per i suoi ordini. Anche Pubblico utilizza questa parola, rappresaglia, tanto che Vauro, prima pagina del Manifesto, fa una vignetta anche shock a suo modo. Mette Marchionne con una pistola fumante e vestito da SS o da Gestapo. La rappresaglia e Marchionne che dice: «Und per prossimo operaien fiom noi caput altri 19». Insomma, questo Vauro. Marchionne invece fa, come detto, un'intervista di un'intera pagina, Raffaella Polato sul Corriere della Sera. A parte la vicenda dei 19, parla anche di Fiat e Italia. Ripartiamo da qui dopo il traffico. Possiamo farcela, ecco la svolta Fiat, investiamo in Italia e poi fusione con la Chrysler. Questo è il titolo dell'intervista che Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, rilascia al Corriere, la trovate a pagina 9. Ha visto come ha reagito la borsa? Totalmente prevedibile. Perché non chiude in Italia? Ovviamente. Così inizia l'intervista a Sergio Marchionne, che parla del suo rilancio per l'Italia. Bugie, io non ne ho mai dette. Risponde così alla domanda: perché ora dovremmo crederle? Io non ho mai detto bugie, ho guardato il mercato, l'ho affrontato resistendo alle critiche, ma senza fare macelleria sociale. Credo nell'Italia, quella di Mario Monti, quella che vuole cambiare. Dunque, prima investo qui per andare a far concorrenza ai tedeschi e solo dopo manderò avanti la completa fusione Fiat Chrysler, diciamo 2014-2015. Tutto insieme non lo posso fare. Racconta ancora Marchionne, martedì al consiglio di amministrazione c'era la FIOM fuori che fischiava, noi dentro intanto prendevamo decisioni di grande coraggio. Il più grande gruppo industriale del paese che lascia sarebbe stato devastante. Lo stesso Marchionne dice: io stesso, chiariamo subito, l'ho definita una scelta non per deboli di cuore. In Europa tre costruttori chiudono fabbriche, Ford guadagna in America ma non mette soldi qui, la Francia dà a Peugeot 7 miliardi pubblici, noi faremo da soli, ma vede, la Fiat è un cantiere aperto e non chiude mai. Non parla di soldi, questa volta Marchionne, possiamo mettere i soldi ma non dico quanto e non dico quando, non l'ho detto nemmeno ai sindacati. L'annuncio di Fabbrica Italia è stato il mio più grande errore. Lo ammette anche lui stesso, dunque il mercato è crollato, mi hanno impiccato sui dettagli. Ora lavoreremo in silenzio, a testa bassa, lasciando che a parlare siano i fatti. Questo è Marchionne, oggi sul Corriere della Sera, mentre qua, non so, è la tosse che avanza, o è il primo novembre, non lo so. Non avendo fatto ponte, allora sapete cosa faccio? Bevo in diretta, Sentite che bevo. Oh, forse adesso si sta un po' meglio, questa rassegna stampa interattiva così va meglio. Su questo la politica invece è affaccendata in altre faccende. Berlusconi è in Kenya, così pare. Non prima, però, di avere avuto un faccia a faccia con Alfano. In questo faccia a faccia con Alfano Berlusconi pare si sia arrabbiato moltissimo. L'ira del cavaliere su Alfano: mi avete messo i gruppi contro e io non vi pago le primarie. Questo ha detto Berlusconi, almeno così si legge in un retroscena di Carmelo Lo Papa su Repubblica. E per la consultazione di dicembre servono 3 milioni, ma Berlusconi dice: trovateveli voi, in pratica. Mi avete messo i gruppi contro e io non pago le primarie. Così racconta anche il Corriere della Sera. Il giornale: Berlusconi cena con Alfano, ma è perplesso sulle primarie. C'è grande tensione sui fondi per gestire la consultazione, con un cavaliere che vuole anche tornare in TV. Ma pare che i consiglieri cerchino di sconsigliarlo su questo. A proposito di TV, ci sono due personaggi politici che si stanno attrezzando ad affrontare questo problema della TV. Il primo è Antonio Di Pietro. Beh, davvero, l'inchiesta di Report ha lasciato un duro segno sull'Italia dei Valori, tanto che oggi Antonio Di Pietro per la prima volta parla, e lo fa con il Fatto Quotidiano, intervistato da Carlo Tecce, trovate l'intervista a pagina 8. Antonio Di Pietro ammette: l'Italia dei Valori è morta a Report, adesso proviamo a risorgere. Antonio Di Pietro ha perso qualcosa, dice nell'intervista con Carlo Tecce, intanto recupera l'agenda, vede di recuperare tutti i suoi appunti sull'intervista fatta con Milena Gabanelli, ma Antonio Di Pietro ammette: qui a maggio andiamo a casa, non entreremo in Parlamento, io la storia già la conosco, l'Italia dei Valori è finita domenica sera a Report, mediaticamente siamo morti, siamo vittime di un killeraggio, di un sistema politico e finanziario che non ha più bisogno di noi. Ma chi spegne la luce siamo noi, non più io. Combattiamo, ma sarà dura. Porte sbarrate a sinistra, porte sbarrate ovunque, siamo isolati e speriamo che i nostri elettori ci aiutino. Un Di Pietro che comunque dice: io non ho 50-60 proprietà. Rido per questo, perché i miei figli mi dicono: tu perché hai 8 fabbricati e io solo 7? In realtà entrambi abbiamo una casa a Milano, entrambi hanno una casa a Milano, comprati su progetto per risparmiare attraverso una cooperativa e una quota di eredità materna a Bergamo, tutto qui. Mia moglie certamente ha più proprietà, ma lei è ricca di famiglia. Comunque Antonio Di Pietro che dice in TV: abbiamo perso tantissimo con questa inchiesta di Report. Un altro politico che invece si interroga sulla TV è Beppe Grillo. Beppe Grillo che ha fatto un vero e proprio diktat, non è la prima volta, contro chi va in TV. ha raccontato di questo, dopo questa comparsata di una esponente del Movimento 5 Stelle, vale a dire Federica Salsi, consigliere comunale a Bologna, a Ballarò. Ecco che Beppe Grillo, anche con una frase abbastanza sessista e molto sgradevole, ha parlato di punto G, quello che ti dà l'orgasmo nei salotti dei talk show, l'atteso quarto d'ora di celebrità di Andy Warhol, con a casa gli amici, i parenti che applaudono commossi nel condividere l'emozione di un'effimera celebrità, sorridenti, beati della tua giusta e finalmente raggiunta visibilità seduto in poltroncine a schiera. E questo è il suo diktat, come dire: non andate in TV, non si sa che cosa pensi della radio, staremo a vedere. Vabbè, ci sono tanti altri temi, ma io devo finire, il tempo è scaduto, la voce se n'è andata, speriamo che torni in un quarto d'ora. Titolo solo della Gazzetta: allora la Juventus ha vinto, l'Inter ha vinto, dunque la Gazzetta titola: batticuore Pogba gol e Inter è seconda Palacio, perché tra l'altro sabato si incontrano Juve e Inter. Questo è il titolo della Gazzetta, ce l'ho fatta, a fatica, ma ce l'ho fatta. Il giornale radio e poi ci ritroviamo alle 8:15, vado a risorgere.